Buonasera, buonasera, siamo qua su Svarielli, e è venerdì sera e questa è la nostra rassegna di Svarielli per l'intervista. Oggi siamo con Leandro ed Ada che hanno questo progettino che ci vengono a presentare di nome Etra, quindi li salutiamo. Ciao. Ciao a tutti. E salutiamo anche gli altri membri dell'equipaggio che infatti... ho fatto l'egocentrico, ho parlato soltanto io, quindi salutiamo il Mozzo. Buonasera, cioè, buonasera a tutti, buonasera. Ciao Etra, Mozzo. Ciao Leandro, ciao Dada. E soprattutto salutiamo anche la Zecca Garbugli. La Zecca Garbugli, buonasera anche a lei. Ricordiamo buonasera a tutti. Siamo tutti limitati nelle nostre cabine di comando personali. E infatti disperso nello spazio e tempo è l'ammiraglio che non c'è pervenuto, ma adesso un pensiero andrà anche a lui durante questa intervista. Quindi io direi abbiamo un sacco di materiale audio da ascoltare e un sacco di cose di cui parlare, ma inizierei con una domanda molto molto secca e molto semplice, ma anche molto difficile, ovvero: ragazzi, chi siete? Presentatevi in qualche minuto. Chi inizia? Siamo Etra, che è il frutto di ennesimi tempi rivoluzionari artistici. Quello così abbiamo voluto chiamare il progetto. Ci siamo incontrati dove, Leandro? Continua tu. Cavolo, me l'ero scritto, aspetta. La manifestazione, come si chiama? Sì, ci siamo incontrati per caso il 15 febbraio, credo, scorso, alla manifestazione. Coordinamento migranti, ecco, non mi veniva. Coordinamento migranti. Sì, sì, e poi da lì, parlando di non so che cosa, è saltata fuori la musica, come spesso succede, e quindi l'ho invitata a un collettivo di improvvisazione libera che esiste da un anno e mezzo negli spazi della BA, che sono principalmente delle prove aperte, e quella è stata un'occasione per conoscersi anche musicalmente. È stata l'unica occasione in cui ci siamo conosciuti musicalmente, e probabilmente anche dal vivo, perché poi è scoppiata la, come si chiama questa cosa qua che è scoppiata, la pandemia, ecco, la pandemia pandemonica, e quindi non ci siamo più visti. Poi a un certo punto io ho avuto l'idea di continuare il lavoro che si faceva in questi spazi qua intorno all'improvvisazione, ovviamente trasformando l'improvvisazione in composizione a distanza, e così abbiamo condiviso del materiale. Soprattutto Dada mi ha fatto partecipe dei suoi scritti, me li ha registrati, e io ci ho messo su delle musiche, insomma, quantomeno, insomma, diciamo con tecniche e materiali piuttosto artigianali, utilizzando programmi open source come Audacity e Hydrogen, con un computer preistorico, impazzendo perché non c'è mai compatibilità tra synth, scheda audio, Windows, eccetera eccetera, però insomma poi i risultati, insomma, è stato un bel viaggione, ecco, come si dice. Te voglio aggiungere che comunque io era da un po' che cercavo un gruppo di improvvisazione con il quale sperimentare cose che già, diciamo, nella mia personale storia avevo così esperito, e cioè momenti in cui sulla musica era possibile improvvisare poesie principalmente. Poi chiaramente quando si improvvisa si può anche lavorare un po' con la voce, cantare, a me piace anche cantare, però principalmente improvvisare poesie in jam con musicisti. E quindi poi mi è piaciuto molto quello, per quello secondo me abbiamo cominciato, quella prima jam che abbiamo fatto è stata comunque abbastanza una bella botta di energia che poi è servita secondo me anche dopo, no? Per iniziare questa conoscenza che stranamente, magicamente ha fruttato nel giro di pochissimo. Infatti direi che è molto interessante questo discorso sull'improvvisazione che stavate facendo, proprio perché diciamo che da quello che appunto mi è parso di capire è un progetto molto molto giovane, anche perché la manifestazione del coordinamento migranti è successa pochi mesi fa se non sbaglio, e quindi appunto il progetto esattamente quando nasce durante questa epidemia, quindi parliamo di qualche settimana fa, 10 giorni fa, e si sviluppa in una maniera molto particolare che secondo me è interessante anche soffermarci sopra, nel senso che adesso con questo discorso appunto della privazione diciamo di libertà, ovvero nel senso che purtroppo siamo costretti per un discorso di esigenza a rimanere nelle nostre abitazioni, ovviamente la piazza su cui noi possiamo avere scambi sociali al di là dei nostri coinquilini e barra abitanti delle case, chi c'ha coinquilini, diventa comunque il web o situazioni tra virgolette cibernetiche. Quindi a me interessa molto, mi piacerebbe appunto chiedervi questo discorso di improvvisazione però attraverso lo scambio di brani, che comunque c'è comunque un trasferimento dati ma con l'intenzione della improvvisazione, se non sbaglio è così, cioè questo è molto interessante come concetto secondo me. Ma diciamo che sono delle composizioni leggere, nel senso che per fare 6 pezzi in 10 giorni ogni pezzo, un pezzo nasceva la mattina e finiva il pomeriggio, e questo come dire è per chi è abituato a improvvisare un buon compromesso con la composizione, perché su ogni pezzo ci si poteva stare 3 mesi e raggiungere una sorta di perfezione o purismo, non so, oppure è un tipo di composizione che è molto vicino all'improvvisazione perché la fai in maniera veloce, spontanea, istintiva, e non stai troppo a ritornare indietro su quello che è già stato fatto. È una via di mezzo, diciamo, tra il vero comporre e il vero improvvisare. Sì, continuità. Infatti a me questa cosa qua mi ha colpito tantissimo e mi è subito interessata un sacco, proprio anche perché ascoltando i brani, che adesso andremo poi a sentire, secondo me si sente, cioè magari l'intenzione dell'improvvisazione, che comunque nel momento in cui c'è sintonia tra appunto gli improvvisatori, comunque le persone che stanno facendo quell'azione lì in quel momento lì, e viene fuori un prodotto che comunque tra virgolette prodotto che è comunque molto genuino, secondo me, non so se condividete questo discorso. E io personalmente ho sentito questa magari grezzo ma molto molto genuino. Certo. Per esempio il primo pezzo che abbiamo scritto, che è Virus, quello è nato proprio attraverso un'improvvisazione, perché io ho, sotto anche il consiglio di Leandro e altri musicisti, si era detto magari possiamo anche non per forza improvvisare ma portare dei testi da leggere di attualità, no? Per essere più incisivi artisticamente nei momenti in cui magari ci si andava ad esibire. E quando lui mi ha chiesto le prime registrazioni, io non sono andata tanto sulla mia roba quanto sugli appunti di studio, per dire, ho detto ma sai cosa c'è, sto studiando queste robe qua, mi sembrano affini, quindi Virus, per dire, è frutto di un'epigrafe, la traduzione di un'epigrafe romana e montata con altre parole che hanno a che fare con, diciamo, quello che la magia, le origini della magia aveva, che però mi sembrava abbastanza attuale l'idea di questa profondità infernale che si abbatteva su di noi quasi come una necessità, questa morte, no? Questa, e nello stesso tempo noi avevamo quasi l'incapacità nei primi momenti in cui è scoppiata la pandemia di accettare il fatto che non sapevamo come affrontarla. Quindi in qualche modo per me era importante comunicare in un certo senso, ecco, al pubblico attraverso quella canzone che ci sono cose che sono più grandi di noi e che noi purtroppo dobbiamo anche imparare a capire che non sempre possiamo gestirle. In quel caso era il mio sottinteso, accettiamo anche questa momentanea situazione di limiti. Ma infatti ho notato che, esatto, ci sono elementi che poi ritornano anche negli altri brani, per dire anche il discorso di questa pandemia, tra virgolette, del virus. Se non sbaglio, a me mi aveva colpito che ritorna anche in Manifesto Post Dada, giusto? Sì. Sicuramente. La storia di quel pezzo è, diciamo, cioè il manifesto nasce alla fine di tutti i pezzi, quindi sembra quasi che uno che abbiamo fatto tutto al contrario in qualche modo. Ma il manifesto è un po' come dire, una presentazione del progetto musicata, però insomma, un po' perché gli audio non erano pronti, un po' perché è andato così, è venuto non era fuori scritto proprio. Non era stato scritto ancora. No. Quindi sono nati i frutti prima dell'albero in qualche modo. E ovviamente, ovviamente essendo frutti, cioè essendo proprio originato in questo periodo qua, è tutto riferibile a quello che stiamo vivendo, quindi ha i riferimenti più o meno espliciti, e poi secondo me c'è anche una riflessione su come reagire, su come prendere consapevolezza, sul fatto che sia un dramma che dobbiamo vivere in maniera consapevole. Poi c'è anche un grosso richiamo a miti, mitologia, poesia, insomma è un lavoro anche abbastanza concettuale, piuttosto oscuro, devo dire, molto delirante, molto sperimentale. Io allora c'ho una proposta, visto che noi dell'equipaggio avevamo scelto ognuno un brano che ci piaceva particolarmente, su cui poi ragionare insieme a voi. Il Manifesto Post Dada era il brano che era stato scelto dal nostro Azzecca Garbugli e quindi direi lo potremo mandare, così anche i radioascoltatori sentono appunto ciò di cui stiamo parlando, e poi ne continuiamo a parlare insieme con Azzecca Garbugli. Che dite? Vi piace? Allora, okay. Direi Manifesto Post Dada. Jamming for the boss, Dada's beauty. Asma nasce da uno ostentato sentimento mito armonico. Si ispira alla musica, è ecologista, situazionista, emotivo, anticapitalista e libero. Il manifesto sul terrorismo artistico. Parole della Venere Osma. Il manifesto della Venere Osma artistico. Osma nasce da uno stentato sentimento mito armonico. L'elemento del discernimento mi ha frantumata. Si ispira alla musica, ecologista, situazionista, emotivo, anticapitalista. Sono una statua libero. Esplosa. Bologna. È scoppiata una bomba letale. Quarantena da coronavirus. Boom! Ha distrutto una Venere dal sapore dada. Una bomba virtuale anti-dada. Boom! Ennesimo giorno. L'esplosione ha bloccato i manifesti. Ed ogni manifestazione spontanea si è rattrappita. L'elemento del discernimento mi ha frantumata. Nei sotterranei. Percorsi solo da cazzo e da altri animali simili dagli occhi autoilluminanti. Sono una statua esplosa. È scoppiata una bomba vitale. Boom! Ha distrutto una Venere dal sapore Dada. Una bomba virtuale anti-Dada. Boom! Prima i diritti di autorità venivano concessi solo a coloro che ottenevano canali di smercio mainstream. Per loro ingegno o per loro mitezza. L'esplosione ha moltiplicato i manifesti. E ogni manifestazione spontanea si è momentaneamente rattrappita nei sotterranei, percorsi solo da gatti e da altri animali simili dagli occhi autoilluminanti. Si è momentaneamente rattrappita. Si è momentaneamente rattrappita nei sotterranei, percorsi solo da gatti e da altri animali simili dagli occhi pie... Ma con i finanziatori arriva la censura o peggio, la manipolazione emotiva. Boom! Anche un'autorità metoposta, la bellezza di una Venere dal sapore Dada, anche quella rischiava sempre di deteriorarsi a causa degli sponsor sugli stili di vita mainstream. Con un cervello di pietra come il mio, che non reagisce agli stimoli. Tutti lo facevano, tutti, per disincentivare gli sponsor altrui. Ma pure per disincentivare i mitoposti autoctoni. E succedeva, ci succedeva spesso proprio adesso, in questi giorni qui, che è scoppiata un'altra bomba. Boom! È successo! È una guerra tra poveri, la guerra tra influencer. Finché non siete in una comunità concreta, finché non avete uno spazio concreto. Se non sapete che a Sanremo si provocano i giudizi utilizzando il metro magico del fare il verso, come vi difenderete? Al contrario, è una magia. Ma dritto, è un rito. Ci vuole un'icona. E poi una nuova statua. E un nuovo dipinto. E un nuovo nome. Un santuario non è propriamente uguale ad un museo capitalizzato o politicizzato dai governanti. Vorrei ricordare tutte le storie sbagliate del mondo. Quelle all'incontrario, ora! La sedicente musica di Sanremo viene suonata da maestri musici assoldati. Non sono un po' come i mercenari quando suonano un pezzo di merda? La sedicente musica leggera, ora però, suona dai balconi di tutti gli ignoranti e spesso stona. Ignoranti dominano la dissonanza. Una bella lavagna dal sapore post-Dada che esplode. Mi sarei voluta affacciare su questo disastro tutta intera con la mia forma estetica, ma adesso sono tanti. Una, nessuna, centomila. Sono piccoli pezzi di pietra arenaria antica, fatti saltare in aria da una bomba virtuale. Non sarei dovuta affacciare su questo disastro tutta intera con la mia forma estetica, ma adesso sono tanti. Una, nessuna, centomila pezzetti. Sono piccoli pezzi di pietra arenaria antica, fatti saltare in aria da una bomba virtuale. Ok, molto bene. Allora, se noi facciamo il contrario un po' di quello che avete fatto voi, se il manifesto Dada è stato post-Dada, perdonatemi, è stato l'ultimo brano prodotto in questa in questo processo creativo che vi ha coinvolto, noi l'abbiamo scelto per primo e siamo tornati all'indietro di nuovo. E dunque, questo brano sicuramente a me ha colpito molto per l'importanza che hanno avuto le parole, che io me lo sono immaginato mentre lo ascoltavo più che come un brano da ascoltare, non so, in live magari, su un palco, come magari possono essere stati altri brani di questo progetto più musicati. E me lo sono immaginato come quasi un monologo, quindi ho sentito una forte componente teatrale in questa registrazione. E partendo da questa riflessione, infatti mi interessava capire un po' il vostro background, capire da dove venite, quali sono le vostre esperienze pregresse che vi hanno permesso di creare questo pezzo particolare, diciamo. E non so chi vuole iniziare. Ma vuoi dire tu, Dada? Allora, il pezzo è un monologo teatrale, sì, io scrivo tanto per il teatro. E le mie esperienze pregresse che hanno portato alla stesura di questo pezzo sicuramente sono legate alla mia frequentazione ultima, per esempio, della caserma, degli spazi dell'ex caserma Sani, dove quando sono entrata la prima volta era già dipinto nella sala che poi è stata chiamata cattedrale, era già dipinto un grandissimo murales di una specie di Madonna con bambino contemporanea che mi ha folgorata per alcuni tratti del volto, insomma del murales, che potevano essere maschili e per i tratti mostruosi che il bambino aveva, secondo me. Ho trovato, tra l'altro c'era una macchia di umidità in quella stanza che aveva un volto che poteva sembrare un volto, anche quella, dalle caratteristiche un po' mostruose, simili a quelle che vedevo nel bambino dipinto. Quindi la Venere ha anche, diciamo, un riferimento a quello, però in realtà è un'idea di bellezza, cioè rappresenta un po' l'idea di una nuova bellezza che stavamo costruendo e che in questo momento è esplosa, cioè ha necessità di esplodere virtualmente, perché ci è stato negato non soltanto lo spazio, ma anche la possibilità di incontrarci e di lavorare, di pensare a come continuare le nostre esperienze di condivisione, partecipazione. Quindi, diciamo, uno stretto legare sicuramente lo ha, però, appunto, dicevo, è un'idea di bellezza ed è una chiamata alla costruzione di un'arte che sappia in qualche modo intercettare le correnti così confuse di questo mondo per creare delle figure, dei simboli, dei prodotti artistici nuovi, anche forse basati sul situazionismo, che poi, ecco, qui si ritorna, magari Leandro può aggiungere qualcosa un po' che, ecco, riguarda invece la GEM, il situazionismo, l'idea che sta a fondamento di questo post-Dada o OSMA, come io lo chiamo. Quindi per nuovi messaggi, diciamo, la necessità di esprimere nuovi messaggi ha portato a questa ricerca, allo sviluppo di questo nuovo mezzo comunicativo, diciamo nuovo no, però un po' non convenzionale, sicuramente ispirato dal... Come, scusa? Sì, sì, da questa metafora che abbiamo usato. Una metafora, esattamente, che unisce quindi le tue esperienze pregresse con il linguaggio teatrale, mentre invece la musicalità e quindi l'esperienza nel campo musicale di Leandro, mi viene da dire. Invece Leandro, che parlaci un po' delle tue esperienze precedenti a livello musicale che hanno portato poi a questo progetto. Ma negli ultimi tempi io sto facendo un qualcosa che si chiama improvvisazione libera, e che è esattamente in linea in realtà con col manifesto, perché l'improvvisazione libera è la destrutturazione della musica, e parte, il che non vuol dire che la nega, non nega né la melodia né l'armonia né il ritmo, però vi associa il suono, vi associa la ritmia, vi associa la tonalità a tonalità tutto attaccato, cioè un'assenza di tonalità, e vi aggiunge tutta una ricchezza timbrica. Il ritmo c'è, può non esserci, può essere una pulsazione, cioè è come dire, l'improvvisazione libera è quello che porta il musicista a veramente esplorare ovunque e non avere nessun tipo di canone né canovaccio. Non ci ho pensato, prima di adesso non ci pensavo a questa continuità poi con quello che sta succedendo, perché appunto come il manifesto arriva dopo i pezzi, probabilmente la comprensione di quello che abbiamo fatto arriva adesso, ma è proprio in linea con una modalità, come dire, con una metodologia che mi appartiene particolarmente, che è quella del fare, dell'agire, e non da fare grossi studi preliminari e poi arrivare a una conclusione, perché il tempo che mi metto a fare gli studi preliminari non ho più neanche voglia di fare quella cosa che mi ero prefissato di fare. Quindi è anche molto una questione esistenziale. Non è che io ho scelto l'improvvisazione libera perché mi piace fare suoni, non rispettare il ritmo nelle melodie o fare quello che voglio, è anche perché, diciamo, corrisponde a un bisogno di uscire fuori dagli schemi di possibilità di creazione infinite, in un certo senso, perché non hai nessun paletto. Su questo voglio aggiungere che, per esempio, io la mia attenzione verso il dadaismo, che poi ha portato alla nascita di questo nome che utilizzo dal 2006, è legata a delle esperienze che avevo con un'associazione di poeti, art attivisti, anche quelli che gravitavano nell'orbita di XM24 all'epoca a Bologna, e durante il quale studiamo i vari manifesti delle avanguardie artistiche per delle performance che facevamo così in eventi. E lì mi colpì particolarmente il legame che c'era tra la nascita di questo manifesto dadaista all'epoca e l'urgenza di uscire, di avere una connotazione politica. E nello stesso tempo le mie esperienze di teatro di underground che avevo avuto precedentemente a Firenze e che stavo avendo a Bologna con questi poeti, quali appunto facevamo dell'animazione ma non eravamo attori ancora, o non lo saremmo mai stati, non lo so, cioè in qualche modo secondo me mi specchiavo molto in questo, no? Perché dicevo, noi magari ce ne freghiamo della forma estetica, in questo mi avvicino secondo me a Leandro, quello che stava dicendo prima, perché abbiamo urgenza comunque di dire qualcosa e quindi buona, cioè lo facciamo ugualmente anche se non siamo dei professionisti, anche se non verrà benissimo, cioè. E secondo me poi chiaramente più lo fai, più cresci anche come esperienze e niente, quindi questo per me era importante anche sottolineare come legame con il dadaismo, quindi non soltanto la distruzione di linguaggio, dicendo, ma anche l'urgenza di un'arte che sappia essere politica. È molto interessante questo discorso che diciamo il contenuto va oltre alla forma, mi verrebbe da dire, proprio da una necessità importante, una risposta diretta. Era anche molto interessante il riferimento che hai fatto al dipinto dell'ex caserma Sani, che tra l'altro sono dei nostri amici che hanno fatto quel dipinto, e qui ti posso dire, conoscendoli, che anche la loro visione, e penso che tu abbia colto profondamente osservando il loro dipinto, la loro visione della pittura è molto simile a quello che avete detto. Anche loro cercano un linguaggio molto diretto, molto forte, che curi più l'espressività del contenuto. E tornando invece al discorso precedente sul teatro e su come, partendo da una riflessione personale, su come mi immaginavo questo pezzo, mentre lo ascoltavo, mi chiedevo come richiederei se voi come vi immaginereste un futuro per questo brano, nel senso che se avete pensato magari finito questo momento appunto di emergenza che ha portato alla creazione del brano, se avete già pensato a un modo di metterlo in scena, mi viene a dire, se pensavate di suonarlo dal vivo oppure recitarlo, insomma, come pensate potesse essere un modo di usufruire di questo brano in un mezzo diverso, che fosse quello digitale, che è stato allo stesso tempo anche un po' il punto di partenza di dove è nato. Quindi dici nel 2026, quando riusciremo a uscire da casa. Ma senti, nel 2026 non riesco a proiettarmi molto, però è ovvio che ci ho pensato a questo, perché sarebbe bello poi poterlo fare live. Ora, riprodurre live quello che è stato fatto, quello che è stato registrato, è praticamente impossibile, a meno che di non pigiare play e farlo partire da solo e io far finta di aggiustare i volumi o non so che cosa. Quindi o quantomeno dovrei avere una componentistica di dispositivi per fare musica elettronica, di questi che magari tu fai partire, hai tutte le tracce pronte, le fai partire al momento. Allora, però usando Audacity e roba da Commodore 64 praticamente questa possibilità è abbastanza infattibile. A me è venuto in mente varie cose, secondo me il nostro canale di sfogo è comunque l'improvvisazione. Scusate. Il nostro come dire canale di sfogo è almeno quantomeno il mio è sempre stato l'improvvisazione, quindi magari io immaginavo come immagino questa cosa la immagino comunque improvvisata, il che non vuol dire che uno è costretto, che non deve sapere quello che cioè, l'improvvisazione ti autorizza anche a dire stiamo facendo un live, io ho una parte da fare con gli strumenti oppure ho una voce da dire o da cantare, me la studio tantissimo e la faccio, quello che succede succede, la faccio, oppure non mi preparo niente, vediamo quello che succede. Un compenetrarsi di queste due possibilità e perché no poi coinvolgere anche altri musicisti e quindi creare delle dinamiche di questo tipo, dinamiche più complesse, però a quel punto appunto non sarebbero i pezzi, sarebbe la Dada che ha voglia di farlo, piacere di farlo, recita i suoi testi quando, come li vuole, se li vuole. Però no, quel pezzo lì cioè non starei a rioggettivizzare qualcosa, cioè l'oggetto c'è, quindi se poi lo devo riprodurre mi sembra quasi una forzatura. Intorno, dico l'ultima cosa, intorno all'improvvisazione c'è anche smettere di appropriarsi, no? dell'oggetto artistico. Tu non ti puoi appropriare della tua improvvisazione a meno che tu non la registri e poi mi fai un copyright, per esempio l'improvvisazione è l'unica che non è tassabile, che, se c'è un controllo CI ti dice sto improvvisando, non ti possono chiedere niente perché non appartiene a nessuno l'improvvisazione. E quindi anche questa cosa dei pezzi, è bello averli fatti, però poi se ci deve essere un grande lavoro dietro per poterli riprodurre, ho paura che se ricasco in questo attaccamento al mio quadro, alla mia musica, alla mia poesia, che poi devo riprodurre, deve piacere, eccetera, eccetera. L'improvvisazione ti permette che tu non sai quello che succederà, farà schifo, sarà bellissimo, e comunque è un qualcosa che è lì, nudo, autentico, non è una riproduzione di niente, a parte di te stesso, del momento che stai vivendo, è per questo che sto seguendo questa linea. Poi mi piacerebbe anche fare live, cioè è anche una questione di competenze, di capacità, no? Cioè mi ci vorrebbero probabilmente 2 anni in un live per riprodurre quello che ho riprodotto registrando, campionando, eccetera eccetera. Anch'io ci ho pensato al live e pensavo cazzo, quando imparerò a usare una loop station gli aggeggi per adesso non so nemmeno come si chiamano, per modificare, no, direttamente le voci del microfono, e quello può essere un modo, però io queste tecniche non le conosco, quindi sono d'accordo con Leandro quando dice che riprodurre qualcosa che è frutto di improvvisazione non ha poi tanto senso. Sicuramente si può lavorare su dei richiami o su dei live che hanno più o meno lo stesso contenuto ma che non potranno riprodurre la stessa forma, sì. No, assolutamente, riprodurre no, ecco, magari mantenere appunto il brano come manifesto che poi si arricchirà, perché il manifesto, come avete ascoltato, è una call anche, E infatti è l'unico sul canale YouTube dove abbiamo poi abbinato anche delle immagini a questi brani, è l'unico brano che ha un'immagine che non è mia, ma è di una ragazza che ha risposto alla call, un'artista, Patricia Taide, molto brava, che vive a Bologna, e che è una mia amica, e io gli ho detto: vuoi donare uno dei tuoi bellissimi disegni per la nostra causa? E lei ci ha regalato quel bellissimo disegno che vi invito a vedere, a guardare, insomma. Il canale YouTube è Arti Gem Situazioniste, e non è soltanto il nostro, nasce da anche qui un nuovo collettivo che si sta creando intorno al tavolo arte dell'ex Casermo, insomma, di tutti i tavoli che si stavano incontrando a Bologna per la questione dell'ex Caserma Sana, del nuovo spazio. E quindi probabilmente questi nostri contatti, boh, chissà, avranno anche delle espansioni pratiche, Quindi speriamo. sai, più che una riproduzione, un'evoluzione, diciamo, dell'idea, uno sviluppo. Esatto, io vedo lo sviluppo più che, cioè, secondo me, esatto, questa irriproducibilità di questo brano mette il progetto perfettamente in continuità col discorso che dicevamo prima dell'improvvisazione, cioè, ed è giusto che sia così. Mi piace molto quello che ha detto appunto Leandro in merito al discorso della riproducibilità o della non riproducibilità. Infatti sono curioso appunto di vedere quale sarà il divenire di tutto questo progetto, a prescindere dal riprodurre le tracce. Cioè, Io un'altra. avrei una domanda, se posso. Volevo chiedere ad Ada se lei, quando ha scritto le cose, cioè se sono cose che lei aveva già scritto in passato, oppure se quando hai sentito la musica di Leandro, ecco, queste sue cose ti hanno poi ispirato queste parole. Esatto. Allora, la prima canzone ve l'ho già spiegata, è nata così da appunti di studio. Le altre erano delle poesie che ho scritto comunque in questi giorni. Ora le ho scritte sì, tutte in questi giorni. E poi, dopo la botta di energia che mi tornava quando ascoltavo i pezzi che Leandro mi rimandava, ho deciso che avrei scritto il manifesto e che sarebbe stato il monologo di una Venere che esplodeva, una specie di scultura, immaginandomi una bomba terroristica. Poi, insomma, ci sono questi riferimenti al terrorismo virtuale, al terrorismo artistico, alla manipolazione che ci, dai media, tenta come una piovra in tutti i modi di scovare quei buchi, piccoli buchetti neri che abbiamo, vuoti da riempire, insicurezze, no? Li possiamo chiamare così, quindi cercare di svincolarci da tutto ciò, magari lanciando noi una bomba virtuale, quindi un manifesto, una chiamata all'espressione artistica, È chiamata alle arti. alle arti, all'espressione artistica, e non per forza da parte di artisti blasonati o esperienziati, cioè, nel senso, io adesso forse lavoro con l'arte, ho sempre a che fare con l'arte, ma cioè, dopo tanti anni mi rendo conto che cioè, non esiste l'essere o non essere artista, cioè un'opera d'arte può venire fuori anche ad un bambino, così. È casuale, è situazionale anche quella, come l'ispirazione. Ok, grazie mille, Dada. C'è un altro elemento adesso, se vogliamo andare ad ascoltare un altro brano. C'è un altro elemento che ricorre appunto in tutti i brani, oltre all'impro, cioè, che ovviamente è incluso all'interno di questa improvvisazione, che secondo me è l'elemento elettronico, ovvero c'è una forte componente elettronica con ritmi e situazionismi, diciamo, che riprendono comunque il genere della musica techno, se possiamo, almeno in alcune. C'è un brano che a me personalmente ha colpito tantissimo, che mi piacerebbe ascoltare adesso, che è Ares, dove sento proprio questa. È come se ci fossero due. Poi magari Leandro, correggimi se sbaglio, ti do la mia personalissima interpretazione di questo brano, ed è per questo che l'ho scelto, perché sento come se ci fossero diverse entità all'interno di questo brano. C'è una prima parte molto tecnoide, per citare appunto le parole del parlato del brano, che poi dopo sfumano in una situazione molto strumentale. Quindi mi piaceva che era una sorta di doppia faccia che io vedo in questo brano. Non so se condividi quello che ho detto o... Sì, assolutamente, proprio così. Quindi io mi piacerebbe ascoltare questo brano e poi parlare con te e con Dada anche questa tematica dell'elettronica, techno e vibes varie che hanno comunque percorso questo progetto. Energia fossile, turbinari di panico, rumori di spade acuti, sofisticati, affilati, mentre la marcia degli elefanti inferociti rulla ai timpani di questo vicolo cieco a basse frequenze. Spietato sarà il furor di popolo a cui sono stati rimessi gli occhi nelle orbite. Adesso non vedere Roma che brucia risulta impossibile ai più. Ora è il tempo, non ritorno. Gli salmoni distinguono il collasso. Quarantena di un moribondo morbo, vomito degli inferi che non riesce a morire. Ora, dal cielo, sete velenose. Ragni sottocutanei che scardinano la flebile illusione di una vita epidermica. Adesso nel sottosuolo, immersi nell'umido oscuro, solo sopravviverà chi brilla in luce propria, una tribù di anime danzanti, inalerà le ultime monadi di sapienza, scale di ipnosi fuorviante, di una vita vissuta a percezione menomata. Dal pop ai tamburi di morte, inno tecnoide, rete amalgamante di frequenze basse, scricchiolano i rapporti di forza atomica per creare connessioni rimbalzanti, durature, elettromagnetiche, altamente rivoluzionarie. Inno tecnoide, che risveglia o uccide. Angelo di morte, camminatore di sentieri promiscuamente pericolosi, scorpione mellifluo, drago dalle squame infette, filantropico necroide. Ares. Thank you. Allora, siamo tornati qua nella meta redazione e appunto ho scelto questo brano perché secondo me è molto forte, cioè almeno è stato il primo brano che ho ascoltato di questo progetto e appena l'ho sentito almeno mi sono parsi tanti elementi che poi ho ritrovato anche in altri brani, però come se fossero stati messi nero su bianco, ovvero prima appunto alludevo descrivendo la prima parte quando parlavo con Dada e Leandro nei miei pensieri si è prefigurato questo immaginario molto da mitologia cyberpunk, molto oscuro, molto più oscuro di Blade Runner, cioè queste cose che sfociano appunto, che ne so, necromante e altre cose, perché accompagnato anche da questo suono techno, da questa elettronica comunque cupa che accompagnava appunto le parole di questo testo, che comunque è dedicato al dio della guerra, ad Ares. E quindi mi piacerebbe sapere esatto da voi come è nato questo brano e se le cose che ho appena detto possono avere un senso nella lettura di questo. Voglio fare solo una puntualizzazione wikipediana di quelle proprio becere, che Ares, poi ditemi se sbaglio, però non è semplicemente il dio della guerra come si pensa, ma è più proprio è come il dio degli aspetti più violenti della guerra, cioè cioè la sete di sangue, ecco, non so come dire. Rappresenta, secondo me, per come la intendo io, un po' l'eroe, lo spirito romano, l'Ubermensch. Per la romanità, la civiltà romana. E questa parte, tra virgolette, più tecnoide, citando le parole di Leandro, e oscura e elettronica, è in contrapposizione con la seconda parte del brano, molto strumentale, dove c'è una chitarra, e quindi ci mostra due facce, forse della stessa medaglia. E quindi volevo chiedere appunto a entrambi come è nato questo brano e qual è il valore e perché l'uso dell'elettronica e anche, non so se si può definire con l'uso della techno, però cioè, secondo me anche in questo caso la techno, quella cassa dritta sotto quelle parole, va a mettere veramente una sottolineatura al parlato di Lea. Ma Dada, il pezzo diciamo che è una tua proposta, no? Sì, il pezzo nasce perché appunto io mi sono un po' spaventata di queste sonorità oscure, di questa, cioè prima abbiamo fatto Veleno e poi dopo ho detto Dio, mamma mia, cioè è troppo buio, mettiamo un po' di luce in questo progetto. E Leandro mi ha detto sì, hai ragione, è molto scuro, un po' macabro così, però l'Ares che era in me aveva proprio bisogno di emergere, ma forse anche quello che era in te. E io gli ho detto allora se questo Ares ha bisogno di esprimersi, prova a scrivere un testo. E così, il giorno dopo, è arrivato il pezzo. Sì, sì, perché poi è stato un botta e risposta di questo tipo, cioè i sei pezzi molto probabilmente sono nati in sette giorni, cioè uno al giorno. L'utilizzo dell'elettronica è praticamente una sorta di combinazione di eventi, perché io ho trafficato un po' con Fruity Loop 20 anni fa, poi da 20 anni non ho quasi più fatto nulla. A tratti ho sperimentato, sempre avendo avuto computer del cavolo, i vari idrogeno, hardware, insomma, che è l'equivalente di Cubase, però non mi sono mai funzionati questi programmi. E invece la quarantena ha portato questa bella notizia, che questa volta funzionavano i programmi anche per fare un po' di musica elettronica. Poi adesso da un anno ho un sintetizzatore per chitarra, quindi ho la possibilità comunque di fare questo tipo di musica. Era tanto che lo volevo fare, cioè, quindi è una sorta di quasi qualcosa che è riemerso da lontano, perché 20 anni fa veramente ascoltavo veramente tanta techno, era un qualcosa che piaceva molto. A distanza di 20 anni ovviamente non è che ho fatto una techno come quella che ascoltavo, l'ho provata secondo me a arricchire di tutto quello che manca la techno, anche quando è fatta molto bene. Se sei lucido, dopo 20 minuti giri un po' intorno, e anche un po' la drum and bass è così, anche se alle volte la drum and bass magari riescono a arricchirla un po' di più, e questo sempre perché comunque spesso manca di un aspetto narrativo, spesso manca di una voce che canta, oppure manca di una tessitura melodica, di una complessità armonica, ma intesa non proprio come armonia standard, come insieme di frequenze che stanno. Cioè, alle volte forse sono un po' ignorante in campo, però spesso trovavo che forse anche un po' in generale i generi si rinchiudono in se stessi, e allora mi sono detto adesso voglio provare la techno, ma come se fosse uno degli strumenti di un'orchestra, non come se fosse il direttore d'orchestra, e mi sono divertito, è stato molto divertente. Ma infatti ti dico, appunto, la sensazione che ho io dell'elettronica all'interno di questo progetto è che non è la scelta di andare a fare appunto un disco techno o un disco che abbia un genere definito elettronico, è come se però l'elettronica dà la possibilità di, insieme agli altri strumenti, andare a dipingere dei paesaggi. Cioè, infatti io ascoltando i vostri brani, i musicisti che mi sono venuti in mente, cioè che ho trovato delle analogie personali, cioè che a me personalmente mi hanno rimandato a quegli artisti lì, sono artisti che comunque, e i brani in particolare, sono comunque tra virgolette dei dipinti sonori, non, faccio un esempio, mi hanno rimandato tantissimo ad alcune composizioni degli Einstürzende Neubauten, che sono tedeschi, industrial, tipo, penso tipo a Strategie contro le architetture, dove ci sono un sacco di suoni, poi loro sono famosi veramente per usare tantissimi suoni, tra l'altro tengono, tipo creano anche delle specie di delay attraverso i vibratori sulle corde da chitarra. Oppure un altro brano che mi ha ricollegato è un brano di Aphex Twin del disco Drax, che si chiama, adesso il titolo è impronunciabile, comunque si chiama tipo Gnarek 2, ed è praticamente una composizione lunghissima di suoni, quindi che sono tipo delle stratificazioni di suoni, ogni tanto un po' di colore così, ma non è appunto né un disco techno, né un brano techno, né un brano IDM o né un brano Aphex Twin in generale, ma è appunto un dipinto in cui lui ha messo dei suoni. Quindi quello che hai detto, Leandro, mi è piaciuto molto proprio per questo discorso qua, che veramente l'elettronica, come tu hai detto, è andata appunto a riempire un immaginario, sono delle suggestioni, molto bello. Sì, una ricerca sonora. Questo del paesaggio è sì, interessante, creare dei paesaggi sonori. Ma sì, volevo fare anche una domanda su il testo che di Ares appunto l'ha scritto Leandro, che comunque c'entra anche con, diciamo, un po' una cosa che si ritrova anche negli altri testi, cioè il fatto della più o meno continua citazione di cose comunque che vengono dalla mitologia greca. Mm-hmm. Ecco. Cioè, la domanda è appunto che cosa, cioè perché, ecco. L'idea, posso rispondere? Certo. L'idea Un po' è di andare a lavorare su, come avevo spiegato prima, no? La nostra capacità di rinarrare immagini che possano avere la forza, ecco, in questo senso anche manipolativa, no? Se vogliamo, che possiamo mettere in campo noi, politica, attraverso le nostre idee, le nostre cose, però lavorando su immagini che siano collegate al mito. Quindi se uno va a ricercare all'interno della propria storia, delle proprie conoscenze iconografiche, mitologiche, via dicendo, per tentare di costruire una nuova narrazione ancorata al presente, mi sembra un buon canale dove diciamo andare a ricercare e a improvvisare, a creare disturbo, no? Gemmare, come dico io. Io posso dire che è un qualcosa che mi ha sempre intrigato, interessato, sempre piaciuto leggere chi se ne era occupato, filosofi o anche certo. altre figure, insomma. Certo. È un linguaggio che è molto interessante, forse perché è a metà strada tra l'antropologia e la fiaba. Quindi è anche un modo per è un bel modo, un modo affascinante di conoscere l'essere umano. Certo. Perfetto, guarda, la risposta è perfetta perché si collega benissimo con la canzone che voglio far sentire ora ai nostri radioascoltatori. E la canzone di cui si parla è Beneficium. In Beneficium esce appunto il nome di Pausania, che non troppo tempo fa io e mio fratello abbiamo scoperto questo nome. Pausania, molto bene. Poi appunto il nome, che comunque è una parola latina che vuol significare l'avvelenamento, un sortilegio, ecco, quindi c'è anche questo alone magico che flutua intorno a questa canzone. E poi la voce di Dada, che come ho scritto io nel mio flusso di parole è stata voce di serpe, una cosa un po' dolce ma comunque anche velenosa. E appunto, come dicevo prima in un fuori onda molto interessante mentre ascoltavamo la canzone, la prima, queste canzoni, le loro canzoni, appena ascoltate mi hanno ispirato un flusso di parole che poi io prontamente ho deciso di scrivere. E se volessimo, sì, sì. Wow. Sì. Oh, vabbè, queste parole magari ve le leggo un attimo e poi sentiamo la canzone e dopo mi dite se ci stavano o meno. Che ne pensate? Alla grande. Okay, allora, okay. Ho scritto Beneficium, veleno, ritmo spezzato, voce serpica, infernale, BPM bello alto, suoni, versi che si scopano la base, crescendo che rimane costante senza crescere, molto figo, Pausania, Pausania. E poi una frase che poi leggerò dopo. Veleno, Beneficium, Beneficium. Thank you. nasce da un'elevatissima roccia a strapiombo, a proposito della quale Pausania precisa di non conoscere alcun luogo che si elevi a una tale grande altezza. L'acqua di Mestige sgorga a gocce da un'elevatissima roccia a strapiombo, a proposito della quale Pausania precisa di non conoscere alcun luogo che si elevi ad una tale grande altezza. L'acqua del sottosuolo gola dunque, dall'alto come dal cielo. L'acqua del sottosuolo gola dunque, dall'alto come dal cielo. L'acqua del sottosuolo gola dunque dall'alto come dal cielo. L'acqua del sottosuolo gola dunque dall'alto come dal cielo. L'acqua del sottosuolo. L'acqua del sottosuolo gola dunque dall'alto come dal cielo. La, la, la, la, la. Ok, siamo tornati. La canzone figata. Quindi eravamo rimasti che mi dicevate voi cosa ne pensavate di quello che mi è venuto. Sembra molto attinente, cioè nel senso, se mi mandi la registrazione ci faccio un altro pezzo, ecco. Sì, ripeto, esatto. Bene, e l'ultima cosa, un'altra cosa che mi ha colpito e che ho apprezzato molto, come appunto che si lega a quello che stava dicendo prima Leandro, che proprio c'è, cioè, questo, diciamo, so come dire, sembra un tratto, comunque un pezzo letto da qualche poema mischiato a una fiaba, cosa così. Sì, il pezzo nasce da alcuni appunti di studio, quindi è proprio tutta la parte sullo Stige, è tratta da è un'epigrafe romana, adesso non ricordo esattamente, cioè, sai, gli estratti di studio. Quindi sì, è stato montato secondo un metodo che io chiamo Osma, e quindi quello di un ostentato sentimento mito armonico che mette insieme anche appunto testi di altri. In questo caso non ci sono problemi di copyright, perché però mi piace utilizzare anche alle volte citazioni senza dichiararne l'autore, ecco, per dire, no? Quindi molto interessante, sì, mi fa piacere anche aver colto, diciamo, se posso dire così, questa cosa, e niente, mi piace molto questa cosa. E altra cosa che volevo dire è di collegarmi a quello che aveva detto la Zecca Garbugli prima, che per lui la cosa che l'aveva colpito di più di queste tracce era magari la parte teatrale. E quanto a me invece devo dire che quelle che mi sono piaciute di più sono state quelle anche più ritmate, forse più musicali, e cioè sempre teatrali, ma in cui la parte musicale era molto, non so come dire, quasi ballabile. Mi è piaciuto, cioè mi ha creato appunto questo paesaggio, questa immagine davanti. Beh, questo brano qua molto secondo me è molto tribale, cioè almeno a proposito di quelle parole del flusso sì, situazionista del mozzo che parlava del BPM ad alto, BPM alto, giusto, cosa che dicevi, BPM alto, devo dire che alto. BPM alto, secondo me qua anch'io condivido appieno questo bel groove tribale. Secondo voi, adesso faccio io una domanda, secondo voi che BTM è? Lo dico subito da Ableton che me lo dice. No, scherzo, no, non guardare, non guardare. Sto scherzando. 110, spariamo. No, sarei un 135. No, 152. Sì. Al top a tutti e due bassi, ah, siamo qua sbagli. Siamo, cioè, tecnazza con la cappona proprio. Però era resa in una maniera molto elegante, cioè, c'ha illuso, diciamo. Perché secondo me gli strati comunque sono alcuni molto veloci, ma poi ci sono anche strati più lenti, quindi quello secondo me va un po' a spezzare il ritmo. Però bellissimo, quel groove lì veramente molto molto tribal. È bello che ci sono brani dove appunto sono più teatrali, brani più musicali e brani invece che sono proprio un tutt'uno. È interessante appunto sentire come? No, scusa. No, a me è interessato molto l'ascoltarli tutti per vedere quanto, siccome ogni brano è frutto della collaborazione di entrambi con esperienze diverse alle spalle, in uno venisse più fuori un aspetto, in un altro magari un altro aspetto e in altri invece si mescolassero appunto a livello paritario quasi. Ma infatti sì, io in questo brano qua, notazioni. Dada, ti chiedo una cosa, magari poi è un mio viaggio. Ho sentito molto di, anche tu prima dicevi che sei del Gargano, non so, a me mi rimandava anche molto alla Taranta, che spero che la Taranta sì. Sia, ok, può sì, essere sì, sì. Una... Allora, su questo pezzo voglio dire che sicuramente questo è il pezzo in cui l'improvvisazione teatrale è più presente, e, l'avevo registrato, ero molto concentrata, però ci sono stati comunque degli errori, però come espressività sicuramente anche l'innesto della persona che respira male, cioè la voce, no? Quando c'è quella difficoltà nel respirare è dovuto al fatto che lo stavo registrando a 2 giorni forse dalle misure per il Covid-19, no? E quindi cioè, c'entra tantissimo quello. Dal punto di vista teatrale sicuramente qui c'è più espressività, più marcato rispetto ad altri testi dove invece la musica è più importante. Come secondo me in Ares, dove avevate appunto sottolineato la specularità del pezzo. Ma guarda, se posso dire una cosa, non è un caso, nel senso che essendo composizioni molto vicine l'une dalle altre, ogni canzone, ogni pezzo, diciamo, saturava per me mi saturava un tipo di atmosfera musicale, quindi quello dopo volevo fare altro, al punto che l'ultimo, che è Manifesto, sono andato a fare delle cose che poi magari è anche carino dirne due parole, perché con la Madda, con la Dada, insomma, ci siamo un po' come dire, rimbalzati un po' su come finire questo Manifesto, che io ho voluto fare in qualche modo un po' volontariamente imperfetto e lasciando le voci nude, non effettandole, andando a valorizzare gli sbagli, gli errori, andando a fare tutto quello che non avevo fatto prima, non ritmandolo un granché, lasciando la voce molto presente, molto potente, e mettermi quasi come piccole decorazioni. E questo ha creato quello che è interessante, una piccola divergenza di opinioni, però è, per rispondere alla domanda, è sempre nell'ottica che è un processo, per cui se il primo pezzo è molto ritmato che tribale era perché era 20 anni che non facevo techno, poi gli altri... Sette di techno. Sette di techno. Poi... Che comunque ci stava. E poi gli altri ogni volta sono andato a sperimentare cose un po' diverse. E quindi questa varietà è semplicemente la curiosità e la voglia sempre di fare cose diverse, perché io se poi faccio sempre la stessa roba mi annoio tantissimo. A me è piaciuto molto lavorare con Leandro, perché cioè, sono riuscita in qualche modo ad affidarmi completamente alla regia finale, cosa che per me, che metto spesso le mani nella regia, è difficile, e sono contentissima dei risultati. Questo dimostra un po' quello che è anche alla base di un laboratorio di improvvisazione, quindi che ti aiuta in qualche modo nell'ascolto di chi lavora con te, nella riduzione un po' della propria individualità per condividersi e forse crescere. Ricollegandoci al discorso, quindi l'ammiraglio come sempre si risulta incredibilmente lungimirante, e è arrivato il momento di porre la sua domanda, che ci è arrivata durante questa diretta, che si collega molto a questo discorso. Leggendo dunque la sua domanda, infatti ci chiede: se vi rivedete in lavoro, in qualche lavoro artistico simile, o il progetto è nato da progetti simili, ispirazione comune? Ma è una cosa totalmente a sé stante, cioè che poi è nata proprio in questi giorni, cioè si ispira a tutto quello che ci ha ispirato fino adesso. Ma se dovessi dire se ho un artisti a cui mi, cioè non sono stati artisti a cui mi sono ispirato, poi magari tutti gli artisti che ho conosciuto personalmente o virtualmente, poi hanno fatto sì che sia arrivato a questa voglia di fare queste cose. Però nello specifico non c'è un progetto a cui mi sento di potermi ispirare, a parte, che ne so, gli Spiral Tribe per la parte tecnica, che ne so, che non è sicuramente male. Sì, no, appunto, infatti secondo me sì, è così, non ha nulla a che fare, però sicuramente è ispirato anche dal contesto, cioè da dove ci siamo incontrati, dal laboratorio jam musicale, cioè tutto il resto che ci circonda sicuramente ha influenzato il progetto che poi è nato. Sì, dalle idee politiche che abbiamo in comune, dalla frequentazione di XM, insomma. Ma anche secondo me dal fatto che siamo vicini, appunto, siamo entrambi molto interessati alla mitologia, lavoriamo tutti e due sull'improvvisazione, abbiamo gusti forse anche simili, perché mi è piaciuto e lui è stato entusiasta dei miei scritti, io viceversa, quindi insomma ci saranno sicuramente dei punti di contatto. Certo, sì. Però è nato ritornando, prima è stato proprio quasi un'esigenza questa, una cosa molto naturale, non è stato un imitare o partire da qualcosa di già esistente. No, è stata proprio, dici bene, un'esigenza, perché comunque tutta questa faccia, cioè questa collaborazione credo che sia nata 4-5 giorni dopo il blocco totale, quindi è stata un'opportunità di dare un senso a questo periodo assurdo, come ognuno di noi stiamo cercando nel piccolo di dare senso a questo spazio-tempo dilagante e distesissimo. E questa è stata una grandissima opportunità, perché io magari andavo a letto non troppo tardi, perché mi dicevo: poi la mattina mi sveglio presto, così sono in forma, così poi faccio la musica e la giornata ha avuto senso. Hanno avuto più senso queste 6-7 giornate dove sono stati fatti questi 6 pezzi che probabilmente gli ultimi 6 mesi di non rendersi conto perché lavori, perché vai lì, perché fai quello, dove vanno i soldi, dove metti i soldi, l'aria di merda che respiri, eccetera, eccetera. Sì, poi immagino anche la cosa che pensavo, appunto, tornando tutto per chiudere, poi tornando al discorso dell'improvvisazione e situazionismo, eccetera, il fatto comunque di importanza della sintonia, che sicuramente c'è stata, e penso che in chiave musicale, non solo, però quando si improvvisa penso che sia una cosa importantissima, l'ascolto, che questa dimensione, certo. Sicuramente l'ascolto non è soltanto musicale, ma un ascolto sicuramente quasi 360 gradi, immagino, perché si parla di musica, si parla comunque di tematiche, si parla di diversi aspetti artistici, quindi bello. In chiusura io, cioè io, noi, con anche l'ammiraglio, appunto ci faceva piacere se voi, anche voi, scegliete un brano per voi importante di questo progetto e ci salutate con questo brano. Da, se vuoi puoi sceglierlo tu, Dana. Io lo sai qual è il mio preferito. Anche tu sceglierei quello. Lo so, però io sceglierei quello per dare una sonorità un po' più leggera. Va bene, vai. Visto che abbiamo affrontato invece quelle più oscure, forse quello più. Sì, quello più leggero, che comunque è una truppa di elefanti, comunque, però sì. Più leggero, e comunque parla della, cioè secondo me si chiama Ora, e cioè sarebbe Parla. Quindi con Ora direi che salutiamo tutti i radio e internet ascoltatori. Salutiamo Dada, Leandro e ciao. Il progetto ETRA. Quindi grazie a voi, gentilissimi. Grazie veramente. Davvero. E niente, a prestissimo. Dai, quando finirà questa situazione pandemica, faremo una bella improvvisazione di Radio alla Spore, grande. Wow. Tutti quanti. Esatto. Cosa, Tom? Dai. Cena improvvisata. Esatto, facciamo dell'improvvisazione e del situazionismo. A presto. Ciao. Grazie. Ciao. Grazie. Grazie. Ciao. Ciao. Ciao. Trema lei col canto dei grilli. E la civetta non minaccia il bosco. Bar, bar, bar.